Cardinale del Diavolo. Nella storia di Bologna, il cardinale Oleggio non è stato l'unico uomo di chiesa più attento all'esercizio del potere e al tornaconto personale che al benessere spirituale dei fedeli. In passato, la contrapposizione tra il potere temporale del Papa e quello di imperatori, re e signori locali è stato causa di un'infinità di conflitti, battaglie, rappresaglie, rivolte sedate nel sangue. Per centinaia di anni Bologna si è trovata al centro di una contesa tra i signori di Milano, i Visconti, e il Papa, con entrambi che rivendicavano il dominio sui suoi territori. Questa disputa ebbe origine nel 1350, quando i fratelli Pepoli, per sfuggire alle rappresaglie del cardinale Durfor, generale agli ordini del Papa avignonese Clemente VI, finirono per vendere la città ai Visconti. Ebbene sì! Nel Medioevo poteva succedere anche questo, che una città venisse messa in vendita. Già nel 1325, tuttavia, era stato un cardinale a mettere nei guai il popolo bolognese, orgoglioso della propria indipendenza dai poteri forti che si spartivano all'epoca l'Italia e l'Europa tutta. Il suo nome era Bertrand du Puget, che fu presto italianizzato in Bertrando del Poggetto. Il cardinale francese era il generale delle truppe pontificie del Papa avignonese Giovanni XXII e nell'ambito di una guerra che lo contrapponeva a Ludovico il Bavaro, imperatore del Sacro Romano Impero, sconfisse in più riprese l'esercito bolognese, finendo per autoproclamarsi signore di Bologna nel febbraio del 1327. La battaglia decisiva fu a Zappolino, dove l'esercito bolognese fu sopraffatto dalle truppe modenesi, in quel momento alleate con quelle pontificie. I modenesi marciarono fin sotto Porta San Felice e fu qui che un soldato prelevò un secchio da un pozzo e se lo infilò in testa a guisa di elmo, per poi correre avanti e indietro lungo il perimetro delle mura per deridere i cittadini che si erano barricati in città. Il secchio, chiamato la secchia rapita, fu poi portato come un trofeo ed esposto a Modena. Oggi si trova nel Palazzo Comunale, come simbolo dell'onta subita dal popolo bolognese. Il pozzo in questione non è più visibile, ma si troverebbe nell'attuale via Saffi, all'altezza del Civico 34. Quasi in mezzo alla strada c'è una lapide, ormai consumata dal passaggio delle auto, che ricorda l'avvenimento. Bertrando del Poggetto fu talmente odiato dai cittadini che decise di costruire nei pressi di Porta Galliera una vera e propria roccaforte per difendersi da eventuali insurrezioni. Per non destare sospetti, raccontò che il Papa intendeva trasferire la sede da Avignone a Bologna e che quella sarebbe stata la sua residenza. Niente di più falso, ovviamente. La residenza si rivelò una struttura difensiva dotata di torrioni, merlature e fossati, difesa da una guarnigione di soldati francesi armati fino ai denti. Bertrando del Poggetto fu un autentico tiranno. Calpestò l'ordinamento comunale imponendo tasse sempre più alte per finanziare le sue campagne contro l'imperatore. Nemmeno le mura spesse della Rocca di Galliera, tuttavia, riuscirono a fermare la folla inferocita che nel 1334 mise in fuga il cardinale e fece a pezzi la sua roccaforte, letteralmente. Venne infatti smontata mattone per mattone dai rivoltosi. Purtroppo anche la cappella fu distrutta e andò così perduto l'affresco dipinto da Giotto che la decorava. Simbolo del dominio papale sulla città, nel corso dei due secoli successivi la Rocca di Galliera venne ricostruita e poi distrutta dalla furia popolare ben 5 volte. Ancora oggi, a fianco della scalinata che porta al Parco della Montagnola, è possibile vedere il rudere dell'ultima ricostruzione, risalente al 500. Ma se Bertrando del Poggetto è ricordato più per le sue ambizioni militari che per l'ardore della sua fede, non raggiunse mai la crudeltà che valse al legato Roberto da Ginevra la nomea di Cardinale del Diavolo. Nel 1375 Roberto da Ginevra era un legato pontificio al servizio di Papa Gregorio XI, l'ultimo dei papi di Avignone. Quest'ultimo, per preparare il ritorno del pontificato a Roma, aveva ingaggiato una guerra contro i comuni dello Stato Pontificio che si ribellavano alla sua autorità. Quella guerra è passata alla storia come la guerra degli otto santi, quanti erano i magistrati che il comune di Firenze oppose ai mercenari del Papa e così chiamati per affermare la legittimità morale della loro azione. Nel 1376 Bologna si schierò a fianco delle truppe fiorentine, in nome dell'indipendenza dall'oppressione del Papa. Fu allora che il cardinale Roberto da Ginevra assunse personalmente il comando delle truppe di Giovanni Acuto, al secolo John Hawkwood, il primo capitano di ventura della storia. I soldati ai suoi ordini erano la punta di diamante dell'esercito del Papa. Si trattava di mercenari bretoni, alti, imponenti, biondissimi, noti in tutta Europa per la loro ferocia. Come rappresaglia contro i bolognesi, Roberto da Ginevra fece tappa a Forlì, ordinando un massacro. Si spostò successivamente a Cesena, dove annientò l'intera popolazione. Si parla di oltre 4.000 persone. Si racconta che i suoi soldati prendevano i neonati per i piedi e li sbattevano contro il muro, massacrando le madri. Scrive frate Borselli, cronista del tempo. Fu uno spettacolo orribile vedere i loro cadaveri abbracciati ai figli senza vita e vedere per le strade i cadaveri nudi delle donne con le parti intime scoperte. La gente era smarrita e non voleva più credere al Papa e ai cardinali, perché queste atrocità facevano vacillare la fede. Nei luoghi occupati dalle sue truppe, quasi tutte le femmine che potevano reggere un rapporto carnale furono ingravidate, persino le ragazzine di appena 12 anni. A Monzuno molte donne furono violentate, tanto che quasi tutte le vergini rimasero gravide. Arrivato alle porte di Bologna, Roberto da Ginevra fece tagliare a pezzi a guisa di bestie 300 bolognesi presso la croce di Casalecchio, al solo scopo di intimidire la cittadinanza. Alla fine di ogni battaglia era lo stesso cardinale ad assolvere i suoi uomini da ogni peccato. Egli benediceva la spada sporca di sangue. La guerra degli Otto Santi si risolse con un nulla di fatto, dato che con il rientro del Papa a Roma si aprì una trattativa con i comuni ribelli. I mercenari di Giovanni Acuto passarono al soldo dei fiorentini e Roberto da Ginevra ripiegò ad Avignone, dove riuscì persino a farsi eleggere Papa, o meglio antipapa, dando così inizio allo scisma d'Occidente. E Papa fu, anzi nuovamente antipapa, anche il feroce Baldassarre Cossa. Legato pontificio a Bologna ai primi del 400 è stato definito da Indro Montanelli con queste parole. Cossa aveva tutte le qualità che un sacerdote non dovrebbe avere. Era un politicante ambizioso e accorto, un amministratore abile e rapace, un generale sagace e spietato. Perché avesse fatto il prete invece che il condottiero non si sa. Ancora meno si sa perché lo elessero papa, e in un momento come quello. Stando al suo segretario, egli aveva sedotto 200 fra ragazze, spose, vedove e suore. Ne intendeva abbandonare questa piacevole attività, ora che aveva indossato la tiara. Cossa ricostruì la Rocca di Galliera e si impose come tiranno a Bologna, governandola con il pugno di ferro. Ma farsi eleggere papa, per amore o per forza, si disse, non gli bastò. Le sue ambizioni erano molto più grandi. Tentò di conquistare Roma e spodestare il legittimo papa, Gregorio XII. Il piano fallì e Cossa, persa anche Bologna a causa di una sommossa popolare, con relativa distruzione della sua Rocca di Galliera, fuggì in Germania, dove fu imprigionato dall'imperatore Sigismondo. Dentro